Terzo anello. Ad alta voce. Elsa Agalbato legge Emma di Jane Austen. Traduzione di Bruno Maffi. Lo svago che ci si poteva attendere anche dal quartiere più animato di Highbury non era molto. Il signor Perry che passava di fretta, il signor William Cox che si recava in ufficio, i cavalli del signor Cole che rientravano dalla passeggiata, un occasionale portalettere su un ostinato mulo. Tali gli oggetti più interessanti che poteva aspettarsi. E quando gli occhi di Emma caddero sul beccaio col suo tagliere, su una linda vecchina che tornava dalla spesa col cesto pieno, su due cani ruzzanti intorno a un osso sudicio e su una frotta di bambini ciondolanti intorno alla vetrinuccia del fornaio e occhieggianti il pan pepato, seppe di non aver ragione di lamentarsi e si svagò quanto bastava per trattenersi lì. Una mente agile e serena può appagarsi di non veder nulla e non veder nulla a cui non interessarsi. Guardò giù per la strada di Rundles. La scena si allargò. Due persone apparvero. La signora Weston e il figliastro. Entravano in Highbury, diretti evidentemente ad Hartfield. Tuttavia si fermarono prima di tutto dalla signora Bates, la cui abitazione era un po' più vicina a Rundles che il negozio di Ford, e avevano appena bussato che notarono Emma. Attraversarono subito la strada e la raggiunsero. E il piacere di aver ballato insieme il giorno prima sembrò rendere ancora più piacevole l'incontro. La signora Weston la informò che andavano in visita dalle Bates e avrebbero sentito il nuovo strumento. «Infatti il mio cavaliere sostiene che iersera io abbia solennemente promesso a Miss Bates di andarci stamattina. A me questo particolare sfugge. Non ricordavo di aver fissato un giorno, ma poiché lui mi assicura che l'ho fatto, ci vado. E mentre la signora Weston sbriga la sua visita, spero mi sia concesso, disse Frank Churchill, di unirmi alla sua comitiva, Miss Woodhouse, e di attenderla ad Hartfield se lei ci ritorna. La signora Weston apparve delusa. Credevo intendesse venire con me. Ne avrebbero gran piacere le Bates. Io? Sarei d'impiccio. Ma forse d'impiccio lo sarò anche qui. Miss Woodhouse ha tutta l'aria di non desiderarmi. La zia, quando fa spesa, mi manda sempre via. Dice che le confondo le idee e parrebbe che la stessa cosa, o giù di lì, pensi Miss Woodhouse. Che fare, dunque? Non son qui per cose mie, disse Emma. Aspetto la mia amica. Si sarà presto sbrigata e torneremo a casa. Ma lei farebbe meglio ad accompagnare la signora Weston e sentire il pianoforte nuovo. Beh, se tale è il suo consiglio, ma... aggiunse con un sorriso. «Se il colonnello Campbell si fosse valso di un amico trascurato e lo strumento si dimostrasse di voce mediocre, che cosa dirò? Non sarò certo di aiuto alla signora Weston. Può sbrigarsela magnificamente da sé. Detta dalle sue labbra, una verità sgradevole non darà fastidio, mentre io, in fatto di cortesi ipocrisie, sono l'essere più maldestro del mondo». «Non lo credo affatto», ribatté Emma. «Sono certa che saprebbe essere insincero non meno dei suoi vicini, se necessario. Solo che non v'è ragione di credere che il pianoforte sia mediocre. Tutt'altro, anzi, se ho ben capito il giudizio datone ieri da Miss Fairfax». «Venga con me», disse la signora Weston, «se proprio non le dà fastidio. Non ci farà perdere molto tempo. Poi andremo ad Hartfield. Desidero seriamente che lei venga. Passerà per un atto di riguardo e prima o poi ho sempre pensato che lo desiderasse». Frank non poté dir più nulla e, sperando di rifarsi con Hartfield, tornò con la signora Weston alla porta di Miss Bates. Emma li guardò entrare, poi raggiunse Harriet al banco dal quale sembrava affascinata, cercando con tutta la forza della sua intelligenza di convincerla che, se voleva mussola semplice, non serviva a nulla guardarne di lavorata, e che un nastro azzurro, per grazioso che fosse, non si sarebbe mai accordato col disegno in giallo del suo vestito. Finalmente la questione fu risolta, non esclusa la destinazione del pacchetto. Al negozio si avvicinarono delle voci, o meglio, una voce e due signore, e Mrs. Weston e Miss Bates vennero loro incontro sulla porta. «Cara signorina Woodhouse», disse quest'ultima, «stavo proprio venendo a chiederle il favore di una visitina per darci il suo giudizio sullo strumento nuovo, lei e la signorina Smith. Come sta, Miss Smith?» «Benissimo, grazie. E ho pregato la signora Weston di venire con me, che possa essere sicura di riuscirci. Spero che Miss Bates e Miss Fairfax stiano benissimo, molto gentile. La mamma gode ottima salute e Jane ieri sera non si è infreddata. Come sta il signor Woodhouse? Felice di averne notizie così buone. È stata la signora Weston a dirmi che lei era qui. Oh, allora, ho risposto io, bisogna che ci faccia una scappata. Sono certa che Miss Woodhouse si lascerà convincere a venire su e la mamma sarà felice di vederla. Ora che siamo una compagnia così simpatica, non può certo rifiutarsi. E il signor Frank Churchill? Sì, la prego. Vale la pena di sentire l'opinione di Miss Woodhouse sullo strumento. Emma sarebbe stata felicissima, disse, di far visita a Miss Bates, eccetera, e finalmente uscirono dal negozio senz'altro inciampo da parte di Miss Bates. Quando entrarono, il salottino era la tranquillità medesima. Mrs. Bates, privata della sua solita occupazione, sonnecchiava a un lato del focolare. Frank Churchill, a un tavolo accanto a lei, era tutto immerso nel lavoro intorno agli occhiali e Jane Fairfax girava loro le spalle, intenta al pianoforte. Tuttavia, per quanto indaffarato, il giovanotto riuscì a mostrarsi felice di rivedere Emma. «Questo sì che è un piacere», disse con voce piuttosto bassa, «venire almeno 10 minuti prima di quel che calcolavo. Mi trovate che cerco di rendermi utile? Ditemi se credete che ci riuscirò». «Come?» disse la signora Weston. «Non ha ancora finito. Non guadagnerebbe da vivere nemmeno come mastro argentiere di questo passo». «Non ho lavorato in continuazione», rispose Frank. «Ho aiutato Miss Fairfax a cercare di mettere a posto il pianoforte. Non era molto saldo sulle gambe. Colpa del pavimento che non è tutto uguale, credo. Come vede, abbiamo infilato della carta sotto un piede. Molto gentile da parte vostra esservi lasciata convincere. Temevo quasi che scappaste a casa». Fece in modo che Emma si sedesse accanto a lui e si diede abbastanza da fare per sceglierle la migliore mela al forno e chiederle consiglio o aiuto nel suo lavoro, finché Jane Fairfax fu di nuovo pronta a sedersi alla tastiera. Che non lo fosse immediatamente dipendeva, sospettò Emma, dallo stato dei suoi nervi. Non possedeva il piano a coda da abbastanza tempo per toccarlo senza emozione. Doveva farsi forza per padroneggiarla ed Emma non poté non compatire questi sentimenti, quali che fosse la loro origine, e decidere di non esporli al suo vicino. Infine Jane cominciò. E sebbene i primi accordi fossero resi fiaccamente, a poco le qualità dello strumento apparvero in piena luce. La signora Weston le aveva gustate prima e le gustò di nuovo. Emma si unì alle sue lodi e il pianoforte fu giudicato con tutte le distinzioni del caso quanto mai promettente. «A chiunque si sia rivolto il colonnello Campbell», disse Frank Churchill con un sorriso ad Emma, «la scelta non è caduta male». «A Weymouth ho sentito dire un gran bene del gusto del colonnello Campbell e la morbidezza delle note alte è proprio quella che lui e tutti gli altri sarebbero particolarmente lieti di apprezzare. Oso credere, Miss Fairfax, o che abbia dato al suo amico istruzioni molto precise o che abbia scritto direttamente a Broadwood. Non crede?» Jane non si voltò. Non era tenuta a sentire perché nello stesso istante la signora Weston si era messa a parlarle. «Non è leale», disse Emma in un sussurro. «La mia era un'ipotesi gratuita, non la metta in imbarazzo». Egli scrollò la testa con un sorriso ed ebbe tutta l'aria di avere pochi dubbi e pochissima pietà. Poco dopo riprese. «Come devono godere della sua gioia i suoi amici in Irlanda, Miss Fairfax? Immagino che penseranno spesso a lei, chiedendosi in che giorno preciso il pianoforte le arriverà. Crede che il colonnello Campbell sappia che lo sta suonando proprio in questo istante? E immagina che sia conseguenza di una sua ordinazione per consegna immediata? O che si sia limitato ad inviare istruzioni di carattere generale, un ordine senza precisazione di data e da eseguirsi a seconda delle circostanze o dell'opportunità? Frank pregò Miss Fairfax, che era sempre seduta, di suonare qualcos'altro. «Se è così gentile, uno dei valzer che abbiamo ballato ieri sera. Me li faccia rivivere. Lei non li ha gustati quanto me. Aveva un'aria stanca e credo sia stata ben contenta che abbiamo smesso di ballare. Ma io avrei dato qualunque cosa avessi da dare, per un'altra mezz'oretta». Jane suonò. «Che felicità risentire un motivo che ci ha resi felici. Se non sbaglio, questo lo si è ballato a Weymouth». Lei alzò fugacemente gli occhi, arrossì profondamente e suonò qualcos'altro. Egli prese qualche spartito da una sedia accanto al pianoforte e, rivolgendosi ad Emma, disse: «Ecco qualcosa di nuovo per me. Lo conosce? Kramer. E qui una nuova serie di melodie irlandesi, come ci si poteva aspettare da quella parte. Tutto mandato insieme al pianoforte. Un pensiero gentile da parte del colonnello Campbell. Sapeva che qui Miss Fairfax non avrebbe trovato musica. Ammiro particolarmente quest'affetto della sua cortesia, segno che viene proprio dal cuore. Nulla d'affrettato, nulla d'incompleto. Solo un affetto sincero può spiegarlo». Emma l'avrebbe preferito meno pungente, ma non poté non divertirsi. E quando, volgendo gli occhi a Jane Fairfax, colse l'ultimo accenno di un sorriso, quando vide che, pur con tutto il suo rossore di consapevolezza, c'era stato un sorriso di segreto incanto, ebbe meno scrupolo a divertirsi e molto meno compunzione nei suoi riguardi. Quell'amabile, rigida, perfetta Jane Fairfax sembrava nutrire sentimenti oltremodo condannabili. Frank le portò tutta la musica, che sfogliarono assieme. Emma approfittò dell'occasione per sussurrargli: «Lei parla troppo chiaro. È impossibile che Jane non capisca». «Spero che capisca. Vorrei che ci arrivasse. Non mi vergogno affatto di quel che penso». «Ma io me ne vergogno quasi, e vorrei che quell'idea non mi fosse mai passata per il capo». «Felice che le sia venuta, e felice che me l'abbia confidata. Ho così la chiave di tutte le sue stranezze. Lasci a lei di vergognarsi. Se agisce male, dovrebbe sentirlo». «Non ne è del tutto aliena, penso». «Non ne vedo traccia. Ora sta suonando il suo pezzo favorito». Poco dopo, passando accanto alla finestra, Miss Bates scorse non lontano, a cavallo, Mr. Knightley. «Il signor Knightley! Bisogna che gli parli, se possibile, per ringraziarlo. Non aprirò la finestra di questa stanza, prendereste freddo. Andrò in camera di mia madre. Giurerei che appena saprà chi c'è vorrà salire. Una gioia vedervi qui tutti insieme e un tale onore per la nostra povera stanza». Passò, sempre parlando, nella stanza vicina e, aprendo la finestra, richiamò senza indugio l'attenzione di Mr. Knightley, e ogni sillaba della loro conversazione fu udita dagli altri con la stessa chiarezza che se si svolgesse nello stesso appartamento. «Come sta? Come sta? Ah, benissimo, grazie. Le sono infinitamente grata della carrozza di ieri sera. Abbiamo fatto giusto in tempo. Mamma ci aspettava. Entri, prego, entri. Troverà qualche amico». Così attaccò Miss Bates, e anche il signor Knightley parve deciso a farsi sentire, perché disse con tono risoluto, quasi di comando: «Come sta sua nipote, signorina Bates? Desidero notizie di tutti voi, ma specialmente di sua nipote. Come va, Miss Fairfax? Spero non si sia buscato un raffreddore ieri notte. Come si sente oggi? Mi dica come sta Miss Fairfax». E Miss Bates fu costretta a rispondere prima che egli volesse sentir altro. La scena divertì gli amici, e la signora Weston lanciò a Emma un'occhiata significativa. Ma Emma continuava a scuotere la testa, in tenace scetticismo. È possibile che si possa stare senza ballare affatto. Si conoscono esempi di giovani che hanno passato mesi e mesi di seguito senza recarsi a nessun ballo e senza che alcun apprezzabile danno ne derivasse loro al corpo o all'anima. Ma una volta che si è cominciato, una volta provate anche fuggevolmente le delizie di un rapido moto, deve essere un'indole ben torpida quella che non ne desidera altre. Frank Churchill aveva ballato una volta ad Highbury e si struggeva dal desiderio di ricominciare. E l'ultima mezz'ora di una serata che il signor Woodhouse si lasciò convincere a trascorrere con sua figlia Randalls fu spesa dai due giovani in progetti su quel tema. La prima idea fu di Frank e suo il massimo impegno nel perseguirla, perché la signorina era la miglior giudice delle difficoltà e la più sollecita delle comodità e delle apparenze. Una cosa sola mancava perché la prospettiva del ballo riuscisse ad Emma di pieno gusto, che fosse fissato in un giorno compreso nel termine stabilito per la permanenza di Frank Churchill nel Surrey, giacché, nonostante la fiducia del signor Weston, non le sembrava poi così impossibile che i Churchill non permettessero al nipote di rimanere un giorno più della quindicina. Ma la cosa non fu ritenuta attuabile. I preparativi avrebbero occupato tempo, nulla poteva essere pronto, a meno di far le cose male, prima dell'inizio della terza settimana, e per qualche giorno bisognò far progetti, agire e sperare, nel dubbio e a rischio, gran rischio a parere di Emma, che tutto fosse invano. Ma ahimè, ben due giorni di gaia tranquillità furono immediatamente seguiti dal tramonto di ogni cosa. Una lettera del signor Churchill arrivò a sollecitare l'urgente ritorno del nipote. Mrs. Churchill non stava bene, troppo poco bene perché si potesse tollerare oltre la sua assenza. Era già molto indisposta, diceva il marito, quando due giorni prima aveva scritto al nipote, ma data la sua consueta ritrosia a disturbare gli altri e l'abitudine ormai radicata di non pensare a se stessa, non ne aveva fatto parola. Ma ora stava troppo male per non preoccuparsene ed egli si trovava nella necessità di invitarlo a partire senza indugio per Escom. Il succo di questa lettera fu immediatamente comunicato ad Emma in un biglietto della signora Weston. Quanto alla sua partenza, essa era inevitabile. Doveva mettersi in viaggio nel giro di poche ore, pur non nutrendo ad attenuazione del suo disappunto alcuna seria ansia per la zia. Conosceva le sue malattie. Non avvenivano se non quando le faceva comodo. Il malaugurato biglietto mise fine alla colazione di Emma. Era pronta per ricevere Frank qualche tempo prima che gli comparisse, ma se ciò non deponeva a favore dell'impazienza di lui, l'aspetto addolorato e l'umore terribilmente depresso quando arrivò riuscirono a riscattarlo. Soffriva troppo della partenza per riuscire a parlarne, era visibilmente abbattuto. Per un po' sedette perduto in riflessioni e si rianimò solo per dire «Fra tutte le cose orribili, la peggiore è lasciarsi». «Ma lei ritornerà», disse Emma. «Non sarà questa la sola sua visita a Randalls?» «Oh, l'incertezza su quando potrò ritornare», scrollando la testa. «Cercherò con tutte le forze di riuscirvi. Sarà l'oggetto di tutti i miei pensieri, di tutte le mie cure». E se gli zii vanno in città questa primavera? Ma temo, la primavera scorsa non si sono mossi, e temo che sia un'abitudine tramontata per sempre. E dover rinunciare al nostro povero ballo? Oh, il ballo! Perché abbiamo aspettato tanto? Perché non cogliere al volo il piacere? Come accade spesso che si distrugga la felicità preparandola, scioccamente preparandola? L'aveva detto lei che sarebbe andata così. Oh, Miss Woodhouse, perché ha sempre tanto ragione? In verità, preferirei mille volte non avere ragione in questo caso. Preferirei essere stata allegra piuttosto che perspicace. Se riesco a tornare, bisogna che lo teniamo il nostro ballo. Papà ci conta, non dimentichi l'impegno. Emma lo guardò con occhio benevolo. Una quindicina come è stata questa? Continuò lui. Ogni giorno più prezioso, più incantevole del precedente. Ogni giorno fatto per rendermi meno propenso a sopportare qualunque altro luogo. Felice chi può rimanere ad Highbury. Elsa Galbato ha letto Emma di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Marzetti, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello @rai.it.